Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buona Befana a tutti, anche a me naturalmente, visto che me ne sono arrivati parecchi questa mattina. Buona giornata da Deborah Rosciani, buon Salva Danaio, che oggi è regolarmente in diretta perché i temi da affrontare non ci mancano e quindi abbiamo mantenuto il live anche per quello che riguarda la nostra trasmissione, soprattutto perché la borsa è aperta e quindi, siccome Salva Danaio in via prioritaria monitoriamo i mercati, oggi vi raccontiamo che sta andando tutto piuttosto bene. Come avete sentito nel giornale radio, gli indici stanno brindando a questa giornata dell'Epifania con rialzi che stanno toccando il punto percentuale a Parigi e Francoforte, Londra un po' meno, più 0,6%, Milano più 1,33%. Ma non è questo il tema di oggi. Sui mercati noi ci andremo domani focalizzandoci sull'andamento dei prezzi delle materie prime e degli strumenti per investire su questo settore. Oggi abbiamo invece un altro argomento. Allora, l'Italia è una nazione nota tanto per il cibo quanto per gli onnipresenti sacchetti di plastica. Così il network internazionale CNN ha dato sul suo sito internet la notizia del divieto di distribuzione dei sacchetti di plastica introdotto nel nostro paese dal 1 gennaio. L'Italia è presentata in questo servizio, appunto, sul web come un paese invaso dai sacchetti che dopo l'utilizzo vengono lasciati a insudiciare strade e discariche. Gli italiani sono tra i massimi utilizzatori in Europa di shoppers in plastica, con un consumo medio annuale di 300 sacchetti a testa, anche se adesso dobbiamo utilizzare il passato, probabilmente lo erano, 20 miliardi in tutto il paese. In Italia inoltre arriva un quarto dei 100 miliardi di pezzi consumati in Europa, dove vengono importati per la maggioranza da paesi asiatici come la Cina, Thailandia e Malesia. Di questi sacchetti il 28% diventava rifiuto e va ad inquinare l'ambiente in modo pressoché permanente, perché poi occorrono almeno 200 anni per decomporli. Altre cifre per dare la misura di ciò di cui stiamo parlando: gli italiani usano un quinto dei sacchetti distribuiti in tutta l'Unione Europea, ogni anno si producono oltre 260.000 tonnellate di sacchetti di plastica, con un consumo di petrolio pari a quello di 160.000 automobili. Allora, noi crediamo che siate tutti abbastanza informati della novità di cui vi parliamo oggi, ma se a qualcuno fosse sfuggito, deve sapere che con il decreto mille proroghe approvato a fine dicembre, dal 1 gennaio di quest'anno è entrato in vigore il divieto di commercializzare i sacchetti di plastica e viene data agli esercizi commerciali la possibilità di esaurire le scorte a titolo gratuito per il cliente. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso una nota recentemente specificando che i sacchetti biodegradabili permessi sono esclusivamente quelli che rispondono ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità. Allora, tutto questo per arrivare ovviamente ai comportamenti dei consumatori. Cosa succede ora? Cosa succederà alla cassa del supermercato? Con che sacchetto andremo a casa, appunto, per riporre la nostra spesa? E perché, insomma, per qualcuno rinunciare al sacchetto di plastica è un bel problema, una rivoluzione culturale davvero drammatica. Allora noi oggi vogliamo affrontare questa questione, che per la verità abbiamo sottoposto in passato anche in altre occasioni, come per esempio quando vi abbiamo presentato la campagna di sensibilizzazione che coinvolge da tanti anni, da alcuni anni, centinaia di comuni italiani, l'iniziativa Porta la Sporta. Ma noi soprattutto oggi vorremmo anche capire come si stanno adeguando a questo cambiamento molto importante, perché non è assolutamente trascurabile, sia la grande distribuzione sia la rete dei piccoli esercizi commerciali. Allora do il benvenuto a Massimo Viviani, direttore generale di Feder Distribuzione, proprio per capire come si stanno adeguando i grandi centri commerciali. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Al posto di lavoro nonostante l'Epifania, così come c'è Giampaolo Angelotti, presidente della Federazione Italiana Esercenti Alimentaristi, la FIESA di Confesercenti. Presidente Angelotti, buongiorno. Buongiorno a tutti. E per la campagna Porta la Sporta, ormai un'amica delle nostre trasmissioni, Silvia Ricci, ideatrice e responsabile di questa campagna, poi ce ne racconterà la genesi, ma soprattutto ci racconterà la sua posizione rispetto a questo profondo cambiamento che sta avvenendo in questi giorni. Silvia, buongiorno e grazie di essere ritornata con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, ci piacerebbe anche sentire la vostra opinione in materia, ovviamente, anche se è festa, sono sicura che ci state ascoltando. Questo è un tema che ci interessa moltissimo, non tanto per le cambiamenti per i cambiamenti delle nostre abitudini a cui dovremo abituarci nel momento in cui dobbiamo andare a fare la spesa, ma si tratta di un cambiamento culturale importante che ha a che fare anche con l'ambiente, soprattutto con l'ambiente, con quell'ambiente che noi vogliamo consegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle generazioni future. 800 24 0024, numero verde per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666 o, se volete, anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La borsa è positiva, ve l'ho già detto, il mercato oggi premia Prysmian più 7% in questo momento a Piazza Affari, il gruppo Balsa per intanto evidentemente il fatto che è soddisfatto che il gruppo sia riuscito a condurre in porto l'iniziativa dell'offerta pubblica di acquisto sulla olandese Draka, per la quale ha dovuto lottare un po' con alcuni concorrenti cinesi, con la cinese Xinmao in particolar modo. Questo gruppo si è ritirato dalla gara e quindi Prysmian può portare avanti la sua iniziativa di conquista del gruppo olandese. Finmeccanica più 3,22%, il gruppo oggi guadagna piuttosto bene anche sulla scia di tutto il comparto in tutta Europa. Hetz a Parigi balza del 3,8% dopo l'aggiudicazione di una commessa da 6 a 3,80 Airbus, e c'è anche un report positivo sul settore di Société Générale. STM più 3, Fiat Industrial più 2,36%, oggi il mercato preferisce questo titolo alle SPA, i due gruppi come sapete sono quotati in questa formula in borsa da lunedì scorso dopo lo spin-off che Sergio Marchionne ha deciso di separare appunto l'auto dalle altre attività industriali del lingotto. Fiat SPA oggi a Piazza Affari perde l'1,31%. Abbiamo Eni in rialzo del 2,26%, il petrolio continua a correre, materie prime domani appunto tema di Salvadanaio. Pirelli più 1,83%, Luxottica più 1,71%. In luce il dollaro oggi sull'euro a 1,3103, il rapporto di cambio fra moneta unica europea e biglietto verde. Vedremo domani l'importante dato sulla disoccupazione americana, questo è sicuramente la statistica centrale della settimana. Noi lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, insomma siamo pronti a dare l'addio ai sacchetti di plastica? Italia, terra del sole e della busta di plastica. Questo almeno stando ai dati che vedono nel bel paese un consumo medio di 20 miliardi di sacchetti di plastica all'anno, circa 300 a testa. Con il 2011 però le cose dovrebbero cambiare in seguito al divieto, entrato in vigore con il cosiddetto decreto mille proroghe, di commercializzare questo prodotto che nel 28% dei casi si trasforma in un rifiuto che impiega ben 200 anni a decomporsi. Dalla mezzanotte del 1 gennaio agli esercizi commerciali resta la possibilità di esaurire le scorte in giacenza, a patto che questo avvenga gratuitamente. Rimangono però alcuni punti ancora poco chiari. Non si è certi, ad esempio, che il provvedimento interessi anche i sacchetti senza manici utilizzati per pesare frutta e verdura, né si conoscono con precisione le sanzioni e le modalità con cui verranno attuati i controlli. E cosa potranno utilizzare gli italiani al posto del familiare sacchettino? La scelta più rispettosa dell'ambiente è sicuramente quella di chiudere con l'usa e getta, preferendo borse riutilizzabili in tessuto. Ci sono anche i nuovi sacchetti biodegradabili, fabbricati con una particolare plastica a base di mais, che però non sembrano convincere appieno, rivelandosi molto meno resistenti e decisamente più costosi dei tradizionali. Secondo le stime di Coldiretti Lombardia, ogni italiano spenderebbe in media almeno 30 euro all'anno in più. E nasce così anche il timore che il prezzo aggiuntivo finisca per spalmarsi in altri modi sullo scontrino, mantenendo forse l'illusione del sacchetto gratuito, ma andando ugualmente a colpire il nostro portafoglio. 800 24 0024 il numero verde per le vostre domande. E allora, quando abbiamo cominciato a documentarci per costruire questa trasmissione ieri con Marco Lombardo, mettevamo insieme tutto il materiale, io banalmente pensavo che la questione fosse molto semplice, che c'era la direttiva europea alla quale anche la legislazione italiana doveva adeguarsi, e quindi appunto nel doverlo fare, facendolo a fine anno e quindi sempre all'ultimo minuto, come un po' siamo abituati a vedere per tante altre cose, altre questioni, altri argomenti, lo fatto in sostanza di fretta, e questo imperativo è diventato subito operativo dall'inizio dell'anno, dando anche poco spazio a campagne di informazione ai consumatori su questo cambiamento. Per la verità, insomma, avremmo dovuto adeguarci a questa normativa europea in tempi molto più indietro, almeno da un anno, e invece insomma l'Italia è arrivata con un pochino di ritardo. Massimo Viviani, direttore generale di Federdistribuzione. Federdistribuzione appunto rappresenta i grandi centri commerciali, grandi supermercati. la grande distribuzione, questo adeguamento a voi proprio non piace. No, le modalità con cui è stato fatto, a prescindere poi chiaramente dalla questione, dal valore ambientale della questione. Ma infatti noi condividiamo in pieno gli obiettivi ambientali e ben venga la possibilità di sostituire gli shopper. Quello sul quale siamo molto critici è sulla modalità con la quale questo sta avvenendo, perché pensiamo che stiamo parlando di aziende, ad esempio quelle del non food, dove gli shopper già non esistono da tempo, e se si entra nei centri commerciali, nei supermercati, nella maggior parte di questi, già nel passato, già adesso si può trovare la scelta, c'è lo shopper tradizionale, c'è quello in materiale biodegradabile, ma ci sono anche le borse riutilizzabili. Quindi l'attenzione all'ambiente per noi è prioritaria. Quello che non ci va però per nulla bene è come è stato portato avanti questo adeguamento. Innanzitutto, in tutta Europa non ci sono divieti come quello che c'è in Italia. È vero che nel resto d'Europa si usa pochissimo lo shopper, ma questo grazie ad accordi fatti tra la distribuzione, la produzione, i consumatori, le istituzioni per fare campagne di comunicazione nei confronti dei consumatori. La stessa Francia, che voleva portare una legge come quella italiana, che portava il divieto secco di vendita degli shopper, l'ha fatta vedere prima alle commissioni europee e la Commissione europea gli ha detto: guarda che questa non è accettabile secondo la normativa europea, te la dovremmo contestare. Sono tornati indietro e hanno fatto un accordo con produzione, distribuzione, associazioni di consumatori per promuovere gli strumenti, i sacchetti biodegradabili piuttosto che quelli riutilizzabili, con grande successo. In Italia noi siamo diversi, esiste la legge approvata il dicembre del 2006 che diceva che dal 1 gennaio 2010 i sacchetti dovevano essere banditi, ma diceva anche che ci voleva un decreto attuativo nel quale si stabiliva un periodo di test, si stabilivano quali prodotti effettivamente sono oggetti del divieto e quindi c'era un periodo di passaggio morbido che avrebbe consentito anche di creare consapevolezza nei consumatori, di dare valore a questa scelta ambientale. Ma il timore adesso qual è? Che per esempio se questa informazione non raggiunge tutti i centri commerciali che stanno esaurendo le scorte, perché poi questo adesso è lo step successivo, si troveranno praticamente a dover gestire molta clientela senza poter avere il modo di mettere la spesa in sacchetti per la spesa, allora qui ci sono quello che è successo con l'avvio di questo decreto mille proroghe. Innanzitutto è che il divieto secco portava due problemi. Uno, un costo per la distribuzione che si trovava i sacchetti in casa e non poteva più farne nulla, danne per decine di milioni di euro. Ma questo problema è stato problema superato appunto con il punto sollevato al Ministero dello Sviluppo Economico, che vi dà questa gradualità per potervene disfare. Questo non risolve il problema economico, consente di fare servizio al consumatore, per fortuna. A questo punto, quando saranno esauriti, ma già adesso se si entra nei punti vendita della grande distribuzione, nella maggior parte di questi, oltre allo shopper che è venduto in modo, non è venduto, è distribuito in modo gratuito al consumatore, di fianco troveranno i prodotti, i sacchetti in materiale biodegradabile e a fianco ci saranno i prodotti, i sacchetti in materiale riutilizzabile. Questo è qualcosa che già c'è, certo, ci ha colto di sorpresa questa rapidità e quindi tutte le aziende stanno correndo per riuscire ad adeguarsi alla normativa, ma siamo sicuri che insomma nel mese massimo due nella quale si andranno a esaurire le scorte ci saranno dei prodotti alternativi che verranno offerti ai consumatori, perché continuano a fare la spesa bene come prima e sicuramente a quel punto con maggiore attenzione ambientale, perché non avremo più in giro questi shopper di plastica. Allora, una questione quindi, come avete avuto modo di capire, molto più complessa di quanto non si ritenga. Gianpaolo Angelotti, presidente della Federazione Italiana Esercenti Alimentaristi, che abbiamo interpellato per capire, oltre alla grande distribuzione, anche i piccoli esercizi commerciali, come si comporteranno, come si adegueranno a questo divieto. Insomma, anche a voi è una questione che vi sta mettendo in grossa difficoltà, Angelotti, oppure per voi il passaggio verso questa rivoluzione che oltre che pratica e anche culturale, insomma, sta avvenendo in maniera più morbida, più tranquilla? Ma per noi la questione è molto meno drammatica, insomma non stiamo parlando né di cifre né di volumi d'affari che possa spingere la grossa distribuzione. Sicuramente un piccolo deposito c'è ogni singolo negozio, che poi nell'insieme comunque fanno numeri, ma siamo convinti che comunque nell'arco dei 60 giorni massimo di riuscire a smaltire ciò che ancora c'è in rimanenza. Premetto che comunque il sacchetto la piccola distribuzione non lo ha mai fatto pagare, questo è una questione anche di quantità, perché non esprimiamo in una spesa media ciò che si può comprare a un supermercato, quindi certamente, anche con relativo peso, ecco, quindi non è il caso di... Però sicuramente per noi questa non è una crisi di un sistema, ma è la crisi del sistema, nel suo complesso. Ecco, ancora una volta io concordo con quello che ha detto il mio collega precedentemente. Innanzitutto questo è un problema da risolvere a monte, perché non è solo la borsa di plastica che comunque è inquinata. Oggi parliamo di quella, però è tutto il complesso del packaging che deve essere rivisto, perché qui non facciamo altro che essere una fabbrica. Ricordiamo che per noi almeno il 20% di ciò che sta nel carrello sono contenitori. E ci va bene se sono biodegradabili o se sono di carta, se sono di plastica, e non soltanto le borse, ma anche il resto aggiungiamo scarti su scarti. Quindi su questa linea noi massimo rispetto per l'ambiente, non... Ecco, ma come ci diceva Angelotti, ecco, sì, ma adesso magari poi affronteremo anche le questioni di principio più ampie. Detto questo, appunto, voi ai vostri associati che tipo di indicazioni state dando, visto che nel giro di un paio di mesi, lei ci ha detto, le scorte appunto dei sacchetti attualmente in magazzino andranno esaurite, quindi quale sarà il cambiamento da fare, dove metterete? Lei opera nel settore della carne, la spesa ai suoi clienti dove la metterà? Beh, sicuramente le problematiche ci sono, perché insomma, ecco, mettere in un sacchetto 2 kg di patate, 3 kg di arance, bisogna trovare anche una soluzione alternativa. Certo. Per noi la soluzione è una buona educazione da parte del consumo, un consumo consapevole, come tutte le altre cose, ma anche della borsa con cui si viene a fare la spesa. Magari le troveremo belle, aggraziate, per poter andare a fare anche una passeggiata. Ecco, magari diventa un bel business pure quello. Ecco. Certamente, ma sicuramente sarà quello, insomma, di vedere, di riutilizzare, di avere una borsa magari benissimo, che si possono anche piegare per fare in modo almeno questo problema di risolverlo. Ci dobbiamo fermare adesso, abbiamo la nostra prima pausa. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Stanno arrivando tantissimi messaggi e tante mail, do lettura di tutto, a tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme questa mattina per affrontare il tema che avete sentito nella prima parte della nostra trasmissione, questa rivoluzione che abbiamo in corso e che molti di noi, forse a molti di noi è sfuggita, ma probabilmente presto, andando a fare la spesa al supermercato, appunto, si potrà rendere conto che non vedrà più sul banco, o quantomeno lo vedrà ancora per poche settimane, il tradizionale sacchetto di plastica, perché ormai sono finiti al bando, e quindi entro poche settimane, dicevo, perché adesso i negozi hanno tempo qualche settimana ancora per potersi liberare appunto delle scorte in magazzino, entro qualche settimana non potremo più utilizzare appunto il sacchetto classico, lo shopper di plastica, anche se i supermercati appunto stanno dando tante altre alternative, costano qualcosa, e vedremo appunto se è così difficile fare questo cambiamento. Silvia Ricci, ideatrice responsabile della campagna Porta la Sporta, tante cose da dire su questo argomento, perché appunto noi adesso ne parliamo in maniera così dirompente, Silvia, perché è arrivato, e questo voglio ricordarlo anche agli ascoltatori, è l'aspetto che fa incavolare la grande distribuzione come i piccoli commercianti, il fatto che il 25 dicembre si stabilisca una cosa che deve diventare obbligatoria dal 1 gennaio, non che la grande distribuzione non sapesse che stava pian piano finendo, appunto andando a finire al bando tutto l'utilizzo del sacchetto di plastica. Questo per chiarirlo agli ascoltatori che ci stanno contestando un po' quello che abbiamo detto all'inizio, e che appunto questo cambiamento ha avuto tutta la sua gradualità e tutto il tempo per poter essere introdotto nel nostro paese. E infatti Silvia Ricci porta avanti questa campagna da quanti anni, Silvia? 2 o 3 anni? Magari, no. Allora, penso che sono un paio d'anni che ti conosco io, ecco, allora questo è il punto. Mi fa piacere che diamo questa sensazione. Allora, siamo nati nel marzo del 2009, proprio come movimento dal basso, nel senso che la campagna è promossa dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, un'associazione che raggruppa 48 comuni italiani medio-piccoli che portano avanti politiche di sostenibilità ambientale a 360 gradi. In preparazione di questo divieto, che sapevamo prima o poi sarebbe arrivato, abbiamo fatto un lavoro capillare di preparazione del terreno, chiamiamolo così. Abbiamo quindi cominciato a sollecitare tutti gli enti locali italiani, comuni, province, regioni, gruppi della grande distribuzione, associazioni dei consumatori, associazioni del commercio, per spingerli a unirsi a noi e cominciare ad affrontare per tempo questo cambiamento, che non è solo un cambiamento per quello che riguarda la tipologia, diciamo, degli imballaggi e del peso che hanno sull'economia, perché adesso si parla di 30 euro che è il totale che potrebbe incidere sui bilanci delle famiglie e sacchetti, ma non si parla, che è una ricerca ad esempio in Inghilterra che ho letto, dice che sono circa 700 gli euro che pesano sulle famiglie proprio per l'imballaggio superfluo. Tra gli imballaggi usa e getta superflui, sicuramente la plastica è quello che ha un impatto più pesante, di cui dopo 50 anni di uso spensierato cominciamo a pagare, diciamo, i conti. Lo stanno, peraltro, con questo aspetto, Silvia ha fatto bene a sottolinearlo, perché lo stanno indicando anche molti ascoltatori, proprio il tema della plastica, e anzi molti auspicano, magari dopo la trasformazione, dopo il, come dire, il bando dei sacchetti, si arrivasse definitivamente anche a quella, con delle alternative che propongono, ma questo è un altro aspetto, prego. Appunto, su questo si è un pochino basato questo progetto, che è un progetto proprio di educazione ambientale dei cittadini, che si può realizzare però solamente attraverso la collaborazione di tutti quei soggetti che ho nominato poc'anzi. Ora, alcuni hanno risposto, alcuni non hanno ancora risposto, quindi io in un secondo momento voglio cogliere l'occasione per rivolgermi a Viviani e Angelotti come rappresentanti comunque di due associazioni importantissime. Quindi sostanzialmente Porta alla Sporta ha deciso di lavorare, sempre in vista di un divieto, di lavorare per andare a modificare la causa del consumo, diciamo, fuori controllo del sacchetto, che è l'emblema del consumo usa e getta. Quindi non c'è solo sacchetto, ma ci sono i sacchettini dell'ortofrutta, per cui presentiamo una soluzione riutilizzabile e un'iniziativa che si chiama Mettila in Rete, per cui stiamo anche lanciando una petizione Mettila in Rete in tutti i supermercati. Cosa vuol dire Mettila in Rete? Mettila in Rete è una soluzione di retino riutilizzabile. Ah, ecco, la rete, il sacchetto a forma di rete. Distribuzione per affiancare nel settore d'ortofrutta una soluzione che si spera sarà biodegradabile, ma siccome non possiamo andare a sostituire a parità di quantità di consumo un usa e getta in plastica con un usa e getta in materiali biodegradabili, perché comunque c'è un altro impatto ambientale a livello di terreni coltivati, fertilizzanti, pesticidi, acqua e comunque energie fossili impiegate per fare le coltivazioni. Quindi anche la bioplastica è una risorsa preziosa, ma dobbiamo utilizzarla in quelle applicazioni dove il monouso è indispensabile. Il sacchetto usa e getta, lo shopper, non è indispensabile, può essere sostituito dalla sporta. In questo modo andiamo veramente a promuovere una soluzione che è quella ambientalmente meno impattante. Benissimo. Sì, no Silvia, ti interrompo solo perché, guarda, mi piacerebbe già cominciare anche a dare spazio alle considerazioni degli ascoltatori, che sono molto sensibili sull'argomento. Tra l'altro ci stanno scrivendo anche operatori di vari settori, come per esempio vedo adesso questo ascoltatore che ci scrive dal sud della Puglia, una società che opera nell'ambito della pesca, anche aderendo alla nuova norma non si firma, questo nostro amico, sì, Giusi, quindi credo sia un'amica, anche aderendo alla nuova norma di eliminazione delle shoppers di plastica, ma nelle pescherie dove il pesce viene lavato ed è quindi gocciolante, non sarebbero comunque adeguati, non sarebbero comunque adeguate le borse di carta? Come facciamo noi che vendiamo pesce? Allora magari sentiamo anche Angelotti e Viviani su questo, per esempio appunto negli angoli pescherie dei centri commerciali come ci si sta orientando. Per il momento non stiamo facendo nessun cambiamento, cioè la legge è incerta. In teoria, se si applicasse alla lettera, dovrebbero essere aboliti tutti i sacchetti di plastica, quindi anche quelli per il pesce che sono metà di plastica, metà di carta, quelli per la pizza che sono metà di plastica e metà di carta. Ora, proprio la fretta di questa legge ha impedito di mettere chiarezza su quello che si può, che quello che è veramente oggetto del divieto di commercializzazione. Noi in questo momento lo stiamo interpretando come shopper, perché non ci sono in questo momento materiali alternativi quando il prodotto è umido. È umido, quindi, oltretutto anche diffonde anche un certo odore, il pesce ha anche tutte le sue particolarità. Quindi noi in questo momento ci stiamo, così come, che ripeto quello che avevamo detto, già da tempo nella grande distribuzione c'è la possibilità di scelta tra il shopper in plastica, quello in biodegradabile, Però alla cassa, materiale, alla cassa, il materiale, il sacchetto riutilizzabile c'è già da tempo, perché è da tempo che ci si sta preparando, però la fretta appunto di questa legge ha impedito di avere chiarezza. Confidiamo che in un arco di tempo breve, ecco, però ci mancano sia chiarezza dettagli normativa. Ancora attuativi, ah, sì, esatto, quindi, ecco, ah, l'unica, sì, cosa certa è che tutte quelle scorte che avete adesso in magazzino ve le dovete liberare in 2 mesi, non c'è più possibilità da, esatto, parte vostra di ordinare ai produttori altri sacchetti di plastica, no, altri shopper in plastica, e quindi dopodiché si vedrà. Allora, ecco, Angelotti, per quello che riguarda il settore pescheria, comunque credo che lei lo rappresenti anche, no? Nella, certo, Fiesa, che ne pensa? Ma guardi, da questo punto di vista io sono fedele alla filosofia di C'era una volta, le porto un esempio, ecco, una volta c'era quella bellissima carta gialla fatta di paglia che usavano sia le pescherie in maniera un po' più pesante, sia le macellerie in maniera un po' più leggera, per riunire il tutto in un unico pacco da poi mettere nella borsa che si portava alla massaia. Quella potrebbe essere una strada, per dire, no? Gli ecco incentivi comunque della borsa che si portano dietro. Il problema effettivamente esiste, è reale, però voglio dire, volendo le soluzioni ci sono. Noi siamo pienamente disponibili a lavorare, però collettivamente e possibilmente con delle linee guida ben chiare, perché, certo, ha ragione, non esiste una linea chiara, decisiva, sul quale potersi quindi muovere. Per esempio, appunto, andando eventualmente a tavoli di confronto nelle prossime settimane, che auspichiamo, come mi pare di capire che li auspichiate voi, che tipo di proposte porterete, Angelotti? Oltre a quelle, ovviamente, la guida di buonsenso verso i consumatori, e qui ci saranno delle campagne a parte, ma poi insomma ci sono i tavoli istituzionali e gli incontri tra l'industria, tra produttori e voi, e quindi qua gli accordi poi sono di natura diversa. Qualche volta il buonsenso c'entra poco, qua si parla di soldi, di business, Angelotti. Ma non c'è ombra di dubbio, però bisogna pure arrivare poi a fare delle scelte, se no ne va di mezzo l'ambiente e tutto il resto, vuol dire. La linea buona, secondo me, è quello, siccome tutti quanti pensano che i vecchi una volta erano antichi, ma secondo me non li erano. Se come una volta incartavano il pesce, adesso vuol dire, non posso dire, parlare dell'umido del lavato, però l'uso della carta oleata come si usava una volta e della carta gialla per fasciare il pezzo potrebbe già essere una soluzione, perché no? Così come per la carne, voglio dire, il problema più grosso, come ripetevo prima, è trovare una soluzione anche per la biodegradabilità, dove poter mettere delle cose ben più pesanti. Ho capito, no, anche perché poi tra l'altro adesso anche queste alternative di contenitori, significa che molte aziende, e magari qua non tutte sono pronte, devono riconvertire anche le proprie produzioni. Chi ha fatto sacchetti di plastica fino a questo momento, siamo proprio sicuri che magari sia pronta a concepire qualcos'altro nell'ambito delle proprie linee produttive, ma adesso magari ne parliamo anche di questo. Intanto qualche ascoltatore, se no non riesco a sentirli. Allora, era prenotato da un po' Omar da Milano. Omar, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, sì, io chiamo per sapere come verranno utilizzati, cioè quali sacchetti dovranno essere utilizzati per la gestione del secco nella raccolta dei rifiuti. Perché lei utilizzava solo gli shopper di plastica, quelli del supermercato? Quindi. Esatto, perché mi sembra di capire che qui si sta trattando del problema a monte, ossia di come i supermercati dovranno adeguarsi alla normativa, ma non del problema a valle, ossia di capire che cosa dovranno fare i consumatori, se utilizzare quindi anche sacchetti più degradabili per la gestione del secco, e se questo effettivamente poi porta a un vantaggio per la collettività, nel senso che se la gestione del rifiuto secco effettivamente ha bisogno di, necessita di un pacchetto biodegradabile. Grazie Omar. Allora Silvia Ricci, volevo interpellare te su questo aspetto, perché poco prima dell'inizio della trasmissione, proprio con Massimo Viviani, ci siamo posti il problema del sacchetto nero della spazzatura, e se questo fosse concepito come lo shopper di plastica o meno. Mi pare che sia fatto in materiale diverso, quindi è biodegradabile, quindi no, perché l'ascoltatore dice: io utilizzavo il sacchetto di plastica del supermercato per mettere la spazzatura, si può andare verso quella direzione là, intanto poi magari viene concepito qualcosa di diverso, non lo so. Sì, tu che... Allora, si può precisare una cosa, intanto che con le prossime disposizioni il rifiuto biodegradabile organico dovrà essere conferito non più in sacchetti di plastica, ma in sacchetti biodegradabili, quindi quelli che si trovano nei supermercati a rotolo in materie o altri materiali similari, che peraltro costano meno comunque della, diciamo, dello shopper in bioplastica dei supermercati, quindi probabilmente c'è un costo di 3-4 centesimi contro i 10 centesimi che costa mediamente una busta. Dopodiché, con la progressione della raccolta differenziata, i sacchetti diciamo per il secco in teoria dovrebbero, diciamo, la richiesta dovrebbe diminuire, Personalmente siamo quattro persone, in un mese io faccio andare due sacchetti per il secco da 30 litri. Mm-hmm. In alcuni comuni si sono già organizzati distribuendo, oltre che i sacchetti per la plastica, anche dei sacchetti specifici per contenere il secco, proprio per evitare la proliferazione selvaggia di sacchetti di tutte le dimensioni, però non esiste, diciamo, al momento che io sappia, una normativa che va ancora a che vada a definire quali sono gli standard e le caratteristiche che deve avere il sacchetto, diciamo, per il secco, per l'indifferenziata. Però, ci dobbiamo fermare, Silvia, solo per un attimo, ti faccio proseguire subito dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Tra l'altro mi stava facendo Massimo Viviani una precisazione proprio sul materiale del sacchetto biodegradabile, il materbino, che teoricamente questo corrisponde all'umido e quindi se anche ci volessimo mettere la spazzatura indifferenziata, teoricamente poi dovremmo svuotare il sacchetto buttarlo da un'altra parte, l'indifferenziata invece nel cassonetto suo. Sì, sì, è così. In questo momento il materbino non è assimilabile alla carta o alla plastica, ma va nello spazio dell'umido, quindi possiamo usarlo per carta o plastica, ma poi appunto ha fatto quell'operazione. Devo lasciar concludere il discorso a Silvia Ricci, però Silvia, ci metto dentro anche una riflessione di un ascoltatore che è Carlo da Monza. Carlo, buongiorno. Oh, buongiorno, io mi chiamo da Monza, però in realtà vivo in Germania del Sud. Noi là sacchetti non ne abbiamo. Si usa una sportina della spesa, che è un elegante cestino in alluminio e stoffa, con cui tu vai a fare la spesa ovunque. Se vai dal verduraio, ad esempio, ti dà o dei coni di carta come imballaggio dove mette la verdura, oppure se prendi, non so, due zucchine, ti dà le due zucchine a mano, senza nessun imballaggio. Se vai al supermercato, stessa cosa, i sacchetti ci sono, però li paghi una cifra assurda perché c'è su una tassa. E quindi c'è proprio un deterrente enorme all'acquisto. Guarda, cioè, se lei compra, le faccio l'esempio perché a me è capitato, un pacchetto di 10 bicchierini di plastica, lei lo paga 2 euro. Ah, però. Quindi le fa passare la voglia al volo. Lei vuole comprarsi i piatti di plastica, è ricco, le passa la voglia. Va bene, Carlo, insomma, quindi voi avete abitudini diverse e nessuno si scandalizza e piano piano, insomma, ci arriveremo anche noi. Anche Maria Teresa, sento, poi ritorna Silvia Ricci. Maria Teresa, buongiorno. Maria Teresa, intanto può abbassare la radio gentilmente perché mi risento io e non è proprio una sensazione gradevolissima. Prego. Signora, io ho telefonato in quanto ho sentito quell'espressione di quel signore, anche sua, prende la borsa e mette dentro la spesa. Non so se ha mai visto nei grandi supermercati le famiglie con i bambini hanno dei carrelli enormi. Sì, sì, no, non ma è ci che mancherebbe. Si possa mettere nella borsa. Ma anche nella io stando da sola ce la faccio la mia spesa, non è che compro una cosa e via. No, nella borsa può mettere chi mette due yogurt o cosa del genere. Secondo me fanno benissimo questi dei sacchetti. Io ho già utilizzato quelli leggeri che si usano per più volte e in più vado a fare la spesa col carrello con le ruote, ma questa è una cosa mia particolare, caccio dentro i pezzi. Quello che è importante è la frutta e la verdura. La mettiamo in quei sacchettini che ci danno, io non so se queste sono biodegradabili, questo è già un problema. In più non lo sono. Pronto? Sì, sì, no, Maria Teresa, le stavo dicendo che appunto questo è un problema aperto ancora, bisogna capire quei sacchettini per la frutta e la verdura che fine faranno, come dovranno essere disciplinati, come dovranno scomparire, quindi insomma la lascio concludere. Nei supermercati dove non hanno una macelleria, la carne è tutta in quei contenitori di plastica bianca, sì, grande. Se lei va in un supermercato che c'è il macellaio, allora lo mette nell'apposita carta. Non è semplice. Per comprare il pesce e metterlo nella borsa, perché chi esce per fare la spesa, come io che ho 76 anni, non esco per comprare un po' di pesce, vado a fare una determinata spesa e non è che portiamo a casa il pesce nella borsa, mi permetta. No, ma infatti Maria Teresa, l'ho detto anch'io prima con Viviani, perché già oltre alla questione dell'odore, insomma, ha una consistenza, ovviamente deve essere protetto in un certo modo, non è che non lo siamo... Maria Teresa, i problemi aperti sono tantissimi e stamattina cerchiamo di affrontarli. Detto questo è un problema che comunque va affrontato. Silvia, ti lascio concludere il discorso di prima, se ci vuoi mettere anche due riflessioni sulle cose dette dagli ascoltatori ora. Allora, anche perché so che ci tenevi a dare delle indicazioni di buon senso ai consumatori, no? Allora, per quanto riguarda il sacchetto biodegradabile, può essere utilizzato esclusivamente per mettere il rifiuto organico e quindi andare nell'impianto di compostaggio e non può essere riciclato in altro modo. Per quel che riguarda, non ha comunque senso metterci il rifiuto indifferenziato quando comunque, voglio dire, questo sacchetto col suo contenuto va a finire in un inceneritore o in una discarica. Quindi a questo punto l'aver coltivato dei terreni per una soluzione più ecologica va a farsi benedire. Per quel che riguarda invece l'aspetto dei sacchetti, diciamo, standard per il secco, sarebbe auspicabile che ci fosse proprio una, come dire, una normativa che va a definire una tipologia di sacchetto il meno impattante possibile, anche se di plastica, quindi plastica riciclata, plastica sottile e quant'altro, perché ovviamente l'obiezione che ci fanno quando ci contattano è: ma allora io devo usare quei sacconi neri spessissimi che inquinano di più. È vero, dobbiamo andare a eliminare tutte le soluzioni plastiche più impattanti per trovare delle soluzioni più sostenibili. Detto questo, la preoccupazione delle persone di dove metto la spazzatura assume dei contorni anche così che fanno sorridere. Silvia, allora, ti dico anche, c'è qualcuno che mi sta ponendo il problema di come smaltire la sabbia dei gatti, quella dove i gatti fanno la pipì e quant'altro, perché certo, anche lì purtroppo ora come ora l'unica alternativa che viene data per chi non ha giardini o terreni è quella di metterla nell'indifferenziato, non, su quello non abbiamo purtroppo e questo va ovviamente a aumentare il peso di quello che è rifiuti indifferenziato, e quindi le percentuali di raccolta differenziate che hanno i vari comuni sono inficiate ovviamente anche da questo tipo Ti chiedo un po' di sintesi, Silvia, perché vorrei ridare anche la parola agli altri ospiti, stiamo già andando verso la chiusura. No, no, posso solo concludere? Certo, come non esiste, allora, certo. Il problema è che per la spazzatura si accaparrano delle quantità senza senso di sacchetti in plastica. Acquistando i sacchettini a rotolo che sono in vendita in tutti i supermercati, uno, se ne usano di meno, non vengono dispersi nell'ambiente, si fa un uso, diciamo, più consapevole. Benissimo, allora ascolta, guarda, ti lascio dire anche due ultime cose, poi vado ad Angelotti e Viviani, so che volevi rivolgere sia un messaggio alla grande distribuzione che al piccolo commercio. Allora, messaggio alla grande distribuzione. Al momento, come Porta alla Sporta, abbiamo 5 gruppi della grande distribuzione che in qualche modo ci stanno dando una mano a portare avanti la nostra iniziativa. Sono di un po' pochi. Sono pochi. In Inghilterra, come ha ricordato Viviani, comunque nei paesi europei, ma in Inghilterra in particolare, ci sono dei programmi proprio ministeriali, rifiuti come risorse, che prendono la grande distribuzione, le aziende, le mettono sedute a un tavolo, riescono a ottenere degli accordi volontari che hanno ridotto del 50% il consumo dei sacchetti e hanno permesso agli imballaggi di non salire come quantità. Vorremmo che la grande distribuzione, diciamo, prestasse più attenzione a quelle iniziative promosse da enti locali, associazioni ONG, così come fanno dei gruppi inglesi come Tesco, che sta lavorando verso per ottenere i punti vendita emissioni zero, e in questa prospettiva riconosce che il cambiamento non si fa dentro le mura di un supermercato, ma si può fare convincendo tutti gli interlocutori, fornitori, clienti a fare il proprio cambiamento. Rapida al piccolo commercio? Piccolo commercio. Rapidissima. Rapidissimo, piccolo commercio. La campagna ha una sezione cosa puoi fare come negozio, che dà locandine e materiali per far sì che ogni negozio sia in grado di fare la sua campagna per ridurre il consumo di sacchetti. Vorremmo che anche le associazioni del commercio rendessero note questa possibilità. Sigliamo oggi questo patto e vedremo poi come andrà avanti. Insomma, vi voglio vedere seduti tutti intorno allo stesso tavolo prossimamente. Carla da Modena, rapidissima. Il 2 gennaio sono andata in una grossa rete dei supermercati a fare la spesa, sì. E avendo una spesa pesante ho preso 2 sporte di plastica, non sapevano nulla, anzi mi hanno detto che c'era stata una deroga per cui si facevano pagare, le ho dovute pagare, le ho prese anche per avere una prova e comunque il 2 gennaio questa grossa rete ancora non si era organizzata. Probabilmente pochissimi sapevano. Quindi di fatto il tema è che lei poteva prenderli ma non avrebbe dovuto pagarli. Viviani, allora Beh, questo qui può abbiamo succedere. Due minuti di tempo, allora, e dobbiamo dire secondi. Un sacco di cose, sì. No, voglio, allora accettiamo la sfida di Porta alla Sporta. Benissimo. Qui mi sembra di capire che uno dei problemi più sentiti, ma è sentito anche nella grande distribuzione, è il problema ambientale. Per noi è in cima ai problemi. Gli imballaggi in plastica sono un problema per tutti, ma non esistono, non abbiamo ancora individuato delle alternative. Ben venga sedersi a un tavolo insieme e vedere come si può fare per fare cultura nei consumatori, nelle famiglie, e trovare delle soluzioni migliori. Su questo questa attenzione che poi va a favore delle generazioni future, noi ci siamo e saremo in prima linea. Per quello che riguarda invece le campagne informative che andranno fatte magari anche nell'ambito dei vostri centri di grande distribuzione, dei vostri grandi centri commerciali, come mai non ci si è pensato, ci state pensando? Beh, ciascuna catena lo sta facendo per conto proprio, anche perché non c'è stato il tempo per coordinarsi. Perfetto. Cioè, questo è stato il problema. E quindi... Benissimo. Angelotti, piccoli esercenti alimentaristi, vi incontrerete con gli amici di Porta alla Sport? Insomma, in qualche maniera, se l'unione fa la forza, bisogna, credo, coordinare un po' tutti gli sforzi per portare avanti questo cambiamento molto, molto importante. Ma noi siamo completamente a disposizione, non abbiamo nessun tema o problema per quanto riguarda questo tipo delle borse in particolare, ma nel suo complesso tutta la plastica. Vi ricordo che comunque il consorzio, tanto per dare una notizia, comunque il consorzio europeo per le plastiche film è contrario a questa iniziativa, ma per quanto mi risulta a me dietro c'è la Total, quindi la battaglia è immane e noi faremo la nostra parte per quel che ci compete, ma non soltanto quello, sicuramente, come è già successo per la mucca pazza, qua bisogna cominciare a lavorare in maniera collegiale su un problema. E lei se la ricorda bene, vero, qualche anno fa? Me la ricordo molto bene. Sicuramente non si possono portare avanti dei problemi con delle assenze di 6 mesi del Ministero dell'Industria, voglio dire. Ecco, guardi, ne abbiamo parlato noi per altri aspetti qualche settimana fa, parlando di una figura che ci interesserebbe molto avere qua sempre come termine di confronto e che invece non riusciamo proprio ad interagire, che è quella di Mister Prezzi, per altri aspetti, per cui ha perfettamente ragione. Qua capita molto spesso, insomma, che si legiferi in maniera anche abbastanza veloce e poi l'impatto di certe leggi a volte non si calcola. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché adesso, prima dei saluti, abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Le parole della previdenza ve le stiamo spiegando da qualche settimana, lo faremo ancora per un bel po' di tempo con la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il concetto di oggi è quello di contributi volontari. I lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 20 luglio 2007 potranno utilizzare la vecchia finestra soltanto se perfezionano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2010. Se li raggiungono successivamente a tale data, nei loro confronti sarà applicata la nuova finestra mobile e la decorrenza della loro pensione sarà dal primo giorno successivo allo scadere dei 12 mesi se lavoratori dipendenti, oppure 18 mesi se lavoratori autonomi. E allora abbiamo terminato, non vi dico quante riflessioni stanno arrivando sulla lettiera dei gatti e degli animali domestici e su tanti altri aspetti che abbiamo sollevato questa mattina, ma è un tema appunto che, da quello che capisco, vi interessa molto, e allora magari andremo avanti anche con il nostro monitoraggio sull'adeguamento anche alla nuova disciplina dell'utilizzo dei sacchetti di plastica al supermercato e anche negli altri negozi. Massimo Viviani di Feder Distribuzione, grazie per essere stato con noi, grazie a Giampaolo Angelotti della Confesercenti, Silvia Ricci della campagna Porta alla Sport, Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti.